Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Da inizio settimana, ormai lo sapete, stiamo dedicando questi 5 giorni ad uno speciale dedicato al libro che ho scritto per il Sole 24 Ore, Economia Criminale, Storia di Capitali Sporchi e Società Inquinate, che da domani troverete in tutte le edicole d'Italia in allegato al Sole 24 Ore. Il costo di copertina è 12,90 euro, sono 304 pagine. Racconto storie soprattutto che riguardano il nord e il centro Italia, perché lì è un mio pallino fisso da anni, lo sapete, che le mafie penetrano, anzi sono già entrate da decenni, è lì che fanno affari ed è lì che verosimilmente corrono il rischio di inquinare sempre di più la società e l'economia sana di queste regioni. Vale per l'Italia questo discorso, ahimè, vale per l'intero mondo. Sapete che le mafie italiane, ahimè, hanno triste primati, tra queste una in particolare lo ha ed è l''Ndrangheta. Oggi parliamo di Lombardia. E con chi ne parliamo? Ma con uno dei magistrati innanzitutto più preparati che ci sono in Italia. Un magistrato che ha portato a compimento delle straordinarie inchieste nel corso degli anni in Calabria, ma che ha avuto per diverso tempo la delega da parte della Direzione Nazionale Antimafia a seguire proprio la Lombardia. Lui è un sostituto procuratore nazionale antimafia e ha scritto la parte dell'ultima relazione dedicata alla Lombardia. Questo magistrato, già nostro ospite, carissimo amico e persona tra le migliori che io abbia mai conosciuto nella mia vita, si chiama Roberto Pennisi. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te, come stai? Bene, grazie. Allora, Roberto, parliamo di Lombardia. Io mi permetto di darti del tu anche in trasmissione, violando una regola, diciamo così, che fa parte della mia categoria. Lo dico ai miei radioascoltatori e per essere, come dire, più confidenziali con una persona che conosco da tempo e che, ripeto, auguro a tutti voi di conoscere e di leggere anche, cioè di conoscerlo attraverso gli atti che lui scrive. E io alcuni di questi atti li ho riportati nel mio libro, Roberto, e in particolare ho riportato quello che tu scrivi nella relazione di fine 2009, quindi l'ultima relazione della Direzione Nazionale Antimafia, in cui tu fai un paragone sorprendente e che mette paura, che ti invito a spiegare ai nostri radioascoltatori, cioè dici: Milano di oggi, quindi la Milano del 2010, quella che si avvicina ad Expo 2015, corre il rischio di essere paragonata a Reggio Calabria di fine anni 80. Spiega tu questo perché ai nostri radioascoltatori. Intanto ti ringrazio per il tu, perché nel mondo globalizzato, la lingua del mondo globalizzato è l'inglese, o si dà del tu o si dà del voi. Assolutamente. Ecco, per non darci del voi, che sarebbe disfetta marca calabrese, assolutamente, ci daremo del tu. E guarda, il paragone che ho fatto nasce dalla osservazione dei fatti, quei fatti che formano la storia, e la storia è sempre maestra di vita. Ecco, l'osservazione dei fatti oggetto delle indagini della Procura di Milano e in particolare le indagini che vanno dal 2007 sino a tutt'oggi, che hanno evidenziato una realtà in termini di attivismo delle organizzazioni criminali calabresi presenti in Milano, nell'intera Lombardia, ma in Milano e nel suo hinterland, in particolare rapportando questi fatti a quelli della Reggio Calabria della fine degli anni 80. Una similitudine ed una corrispondenza di attività che hanno indotto il mio ufficio a ritenere come le realtà fossero per certi versi assolutamente sovrapponibili. Ecco, riesci a sovrapporre per i nostri radioascoltatori le similitudini tra questi due capoluoghi? Guarda, il discorso è anche, se vogliamo, profondo, non dimenticando che agli inizi degli anni 90 si affermava a Reggio Calabria che Milano era provincia di Reggio Calabria. Già negli anni 90. Negli anni 90 si affermava questo, provincia di Reggio Calabria, e fin quando Milano era provincia di Reggio Calabria è chiaro che le realtà non erano corrispondenti. Oggi quello che una volta era da considerarsi un feudo di Reggio Calabria, oggi è diventato un regno. Quindi si è anche sganciato e reso più autonomo rispetto alla madrepatria criminale. Ma ecco, questo non lo posso affermare e non è tanto importante. Nella mia relazione, ecco, affronto anche questo tema. Sì. Non sciolgo un giudizio definitivo, tant'è che, ecco, parlo di una sorta di interattività. Esattamente. Tra la Lombardia e la Calabria, tenendo presente che la prima non mancherà mai, cioè la Lombardia, di riconoscere la primogenitura, certo, della seconda, cioè della Calabria. Assolutamente. Che la Calabria è la madre patria del tutto. Assolutamente. A livello mondiale. Ecco, ma a livello mondiale, hai fatto bene a sottolinearlo. Ecco, Roberto, ma ti chiedo questo. A fine anni 80, inizio anni 90, a Reggio Calabria ci fu una guerra micidiale che lasciò sul campo centinaia di vittime. Bravo. Questa sovrapponibilità tra, allora, questi due capoluoghi è in questa direzione? Hai tu pudore nel dirlo o io sfrontatezza nell'affermarlo? Ma guarda, ecco, all'epoca, fine anni 80, si chiamava Decreto Reggio. Cioè Decreto Reggio Calabria, sì, era un decreto governativo che prevedeva un rilevante quantitativo di stanziamenti per Reggio Calabria. In funzione di questi denari che stavano per arrivare, a Reggio ci si uccise senza sosta per anni. La famosa seconda guerra di mafia, esattamente, di Reggio Calabria. Ecco, Roberto, vuoi dire che, ed ecco venire anche al mio libro nuovamente, alle storie che racconto e che introducono Expo 2015 anche nel mio libro, vuoi dire che quella marea di miliardi che arriverà potrà indurre una guerra di mafia a Milano per l'accaparramento di quelle risorse attraverso i metodi dell'economia criminale, vale a dire subappalti, movimento terra, personale, acquisizione di terreni, assunzioni e tutto quel che ne consegue? Ecco, guarda, oggi si chiama Expo 2015. Quello che una volta era, quello che in Calabria, fine anni 80, era il decreto Reggio, in Lombardia oggi si chiama Expo 2015. Ecco, qui il discorso diventa più profondo e sofisticato. Non c'è da immaginarsi a Milano e in Lombardia una guerra che lasci troppe vittime sul campo. Perché vedi cosa c'è, i tempi sono cambiati. Certo. Non siamo più negli anni 80-90 del secolo precedente, siamo nel primo decennio del secolo successivo. E quindi una guerra di mafia che qui sarà silente. Ma guarda, se vogliamo, la guerra c'è già stata. Certo. A Milano, una guerra certamente di livello limitato, anche perché a Milano, anche negli anni 80, si era sparato. Milano fu teatro di una guerra, ma era una guerra di tipo diverso. Era un periodo in cui in Milano esistevano entrambe le mafie e la camorra. Oggi esiste l'Ndrangheta. Oggi esiste l'Ndrangheta. Quella guerra servì per individuare chi dovesse comandare. E purtroppo qualcuno ha preso il comando e quel qualcuno è stato la Calabria grazie alle sue cosche criminali. Io ringrazio Roberto Pennisi, sostituto procuratore nazionale antimafia, per aver continuato con noi il cammino di questa settimana di presentazione del mio libro. Ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani.